sta succedendo che la grande svolta annunciata da Grillo, cioè del passaggio da un movimento che si sarebbe un po' tornato alle origini, soprattutto del grillismo più che del Movimento 5 Stelle, quindi un movimento che si caratterizzava come il movimento che avrebbe coniugato innovazione e ambientalismo tramite il super ministro della transizione ecologica, era passata sulla piattaforma Rousseau, quindi aveva convinto la maggior parte degli iscritti, e però poi è stata messa in dubbio nel momento in cui è stata resa nota da Mario Draghi la lista dei ministri, la compagine di governo. Quindi quello che viene messo in discussione in questo momento da un numero ancora da accertare di parlamentari, si dice intorno alla cinquantina tra deputati e senatori, e da gran parte della base, non è il fatto di essere entrati in questa maggioranza, ma il come sono state gestite le trattative, come sono state scelte le nomine e come sono stati divisi i ministri. E questa è una cosa che quindi direttamente mette in dubbio e pone problemi sui vertici del movimento, cioè su chi ha gestito questi passaggi, soprattutto Vito Crimi, che ormai è capo politico reggente ma non è stato eletto da nessuno. Nel weekend Barbara Lezzi ha chiesto di ritornare ad esprimersi sulla piattaforma Rousseau, sono tornate le argomentazioni relative a Forza Italia e la mafia eccetera eccetera. È verosimile che ci sarà un gruppo più o meno consistente che voterà no, o si andrà verso l'astensione? La proposta dell'astensione circolava da prima del voto su Rousseau e ieri è stata riproposta da Davide Casaleggio. Davide Casaleggio da tempo ormai è un po' fuori dalle dinamiche del movimento, anche molto screditato, i più duri dicono che addirittura ormai è un divorziato in casa, si ripropone come fattore di mediazione, proponendo per mantenere l'unità che chi è contrario alla nascita del governo si astenga. Questo si vedrà nelle prossime ore, secondo me, cosa sceglieranno di fare i dissidenti. I vertici contano di recuperare il dissenso, circolava questa proposta di far ripetere la votazione, perché il ministro della transizione ecologica, come era stata proposto dal quesito formulato su Rousseau, non si è concretizzato e che quindi ci sarebbe bisogno di una nuova votazione. Questo è da vedere, lo si vedrà, insomma, sono momenti abbastanza convulsi che sicuramente indeboliscono il Movimento 5 Stelle nella fase decisiva della trattativa per l'inizio del governo e per la formulazione del programma di governo. Da qui l'invito all'unità da parte dei vertici attuali per non perdere forza contrattuale. C'è da dire che Grillo aveva messo in conto alcune perdite, anzi è proprio il fatto che ormai considerava il Movimento 5 Stelle come una bestia incontrollabile che aveva deciso di riscendere in campo, di dargli un'identità più precisa, meno anticasta e più ambientalista e farlo entrare nel governo. Quale sarà il futuro del Movimento 5 Stelle? È evidente che ci sarà un prima e un dopo questi giorni, ed è evidente che il Movimento 5 Stelle, se esisterà, se continuerà a esistere, perché oggettivamente c'è in dubbio anche l'esistenza stessa del Movimento 5 Stelle in quanto tale, non nel brevissimo termine ma nel corso dei prossimi mesi. Dicevo, se continuerà a esistere sarà un oggetto politico completamente diverso rispetto al passato. Grillo ha spiegato ai parlamentari che la fase dell'anticasta si è chiusa ed è convinto intimamente, questo l'ha detto ai suoi più alle persone più vicine, alle persone più fidate, che quella fase lì è servita a raccogliere voti ma è servita anche a costruire un movimento che politicamente non ha un'identità precisa e che quindi, cosa che può servire per prendere voti a destra e a sinistra, ma che poi all'atto del governare e della gestione politica quotidiana diventa molto difficile. Per cui Grillo ha in testa un soggetto più stabilmente ancorato al centro-sinistra, che è caratterizzato per elementi ambientalisti. Questa è una visione meno romantica di quello che si può pensare, perché Grillo sa bene che, e i suoi consulenti gliel'hanno spiegato molto bene, che questa partita della transizione ecologica è una partita anche economica, anche dal punto di vista della crescita economica, enorme, non è semplicemente una riverniciatura morale ad azioni fatte da altro, e il Movimento 5 Stelle dovrà dimostrare di essere al crocevia di questi flussi di denaro enormi che verranno investiti.